sasso che l'acqua tira giù, io mi perdo nel blu degli occhi tuoi. La mia libertà non la voglio più, amo il bianco e tu sei candida. Piano che